sera, guardava da dentro la pioggia che c'era, pensava al suo tempo passato e futuro, voleva un piacere più forte, più duro, che quello che aveva non era bastato a sentirsi viva in un vero peccato. Cercava l'amore, cercava l'affetto, sfiorandosi sola nel letto. Jenny, leggera, leggera, aspettando la vita, passava l'entrata, passava l'uscita, passava la puzza di fumo e di vino, passava il sudore di un vecchio bambino. Sembrava la stella che insegue la luna, sapeva di essere soltanto una, che per non morire due volte in un'ora mordeva le stesse lenzuola. Non dormire, oggi ti faccio star bene, è un gioco che fa divertire e che mi fa impazzire. Jenny, leggera, leggera, aspettando la sera, parlava con gente che non conosceva, viaggiava in un treno non molto pulito, non credeva a quello che dietro ha sentito, discorso un po' lungo ora da ricordare, so che non c'entravano il sesso o l'amore, le ha detto se voglia so farmi piacere, per credere basta provare.